5G. Ascolta e trasforma. Dimenticheresti questa offesa? Dimenticheresti questa offesa? Giocheresti in queste condizioni? Giochereste in queste condizioni? Allo stadio ci andresti a piedi? Allo stadio ci andreste a piedi? Spiegherebbe tutto, ma non lo fa perché non conviene a nessuno. Spiegherebbero tutto, ma non lo fanno perché non conviene a nessuno. Pagherebbe lui, ma è al verde. Pagherebbero loro, ma sono al verde. Negherebbe tutto, ma il fatto è troppo evidente. Negherebbero tutto, ma il fatto è troppo evidente.